Joaquín Andieta viveva tormentato da un romanticismo politico senza eco in quel paese di gente pratica e prudente. Era diventato un fanatico delle teorie di Lamennais, che leggeva in mediocri e confuse traduzioni dal francese esattamente come leggeva gli enciclopedisti. Al pari del suo maestro auspicava il liberalismo cattolico in politica e la separazione tra Stato e Chiesa. Si dichiarava un cristiano primitivo, come gli apostoli e i martiri. Ostile però ai preti che tradivano Gesù e la sua vera dottrina e che era solito definire sanguisughe nutrite dalla credulità dei fedeli. Si guardava bene, tuttavia, da lasciarsi andare a tali ragionamenti davanti a sua madre, che sarebbe potuta morire dal dispiacere. Si riteneva anche nemico di quell'oligarchia così inetta e decadente e del governo, che invece di rappresentare gli interessi del popolo faceva quelli dei ricchi, come dimostravano con innumerevoli esempi i suoi compagni delle riunioni alla libreria Santo Stornero e come lui spiegava pazientemente a Eliza, anche se lei lo ascoltava a malapena, interessata com'era a sentire il suo odore più che i suoi discorsi. Il ragazzo era disposto a giocarsi la vita per l'inutile gloria di un lampo di eroismo, ma aveva una paura viscerale di guardare Eliza negli occhi e di parlare dei propri sentimenti. Presero l'abitudine di fare l'amore almeno una volta alla settimana nella stanza degli armadi diventata il loro nido. Erano così pochi e preziosi i momenti da trascorrere insieme che a lei sembrava assurdo perderli a filosofare. Se si trattava di parlare, allora preferiva che l'argomento fossero i suoi gusti, il suo passato, sua madre e i progetti di sposarsi con lei un giorno o l'altro. Oh, avrebbe dato qualsiasi cosa pur di sentirlo pronunciare le magnifiche frasi che le scriveva nelle lettere, pur di sentirgli dire, per esempio, che sarebbe stato più facile misurare le intenzioni del vento o la costanza delle onde sulla spiaggia che non l'intensità del suo amore. Che non c'era notte invernale in grado di raffreddare la fiamma inestinguibile della sua passione, che trascorreva la giornata a sognare e la notte a vegliare nel tormento senza tregua della follia dei ricordi, a contare con l'angoscia di un condannato le ore che mancavano al loro prossimo abbraccio. Sei il mio angelo e la mia perdizione. In tua presenza raggiungo l'estasi divina e in tua assenza sprofondo all'inferno. Qual è la natura del potere che eserciti su di me, Eliza? Non parlarmi di domani e di ieri. Vivo solamente per questo istante dell'oggi in cui torno a inabissarmi nella notte infinita dei tuoi occhi scuri. Scriveva. Infervorata dai romanzi di Miss Rosa e dai poeti romantici, i cui versi conosceva a memoria, la ragazza si perdeva nel piacere intossicante di sentirsi adorata come una dea e non coglieva l'incongruenza tra quelle dichiarazioni infiammate e la vera essenza di Joaquín Andieta. Nelle lettere si trasformava in un amante perfetto, dotato degli strumenti per descrivere la sua passione con tale angelico afflato che la colpa e il timore sparivano per far strada all'esaltazione totale dei sensi. Nessuno prima di loro si era amato in quel modo. Erano stati scelti tra i mortali per vivere una passione irripetibile, diceva Joaquin nelle lettere, e lei gli credeva. Tuttavia, faceva l'amore con ansia e smania, senza assaporarlo, come chi soccombe a un vizio con il tormento della colpa. Non si concedeva il tempo per conoscere il corpo di lei, né per rivelare il suo. Veniva vinto dall'urgenza del desiderio del segreto. Aveva la sensazione che il tempo non fosse mai sufficiente, nonostante Eliza lo tranquillizzasse spiegandogli che nessuno andava in quella stanza di notte e che i Somers dormivano sotto l'effetto della droga, che mamma Fresia faceva altrettanto nella sua casupola in fondo al patio e che le stanze del resto della servitù si trovavano all'ultimo piano. L'istinto attizzava l'audacia della ragazza, incitandola a scoprire le molteplici possibilità dell'amore, ma imparò presto a reprimersi. Le sue iniziative nel gioco dell'amore mettevano Joaquin sulla difensiva. Si sentiva criticato, ferito o minacciato nella sua virilità. I peggiori sospetti lo tormentavano, perché non riusciva a immaginare una tale naturale sensualità in una fanciulla di 17 anni, il cui unico orizzonte erano le quattro pareti di casa. La paura di una gravidanza peggiorava la situazione perché nessuno dei due sapeva come evitarla. Joaquin aveva una vaga idea della meccanica della fecondazione e supponeva che se si fosse ritratto in tempo sarebbero stati in salvo, ma non sempre ci riusciva. Si rendeva conto della frustrazione di Eliza, ma non sapeva come consolarla e invece di provarci si rifugiava immediatamente nel suo ruolo di guida intellettuale in cui si sentiva sicuro. Mentre lei anelava di essere accarezzato, almeno di poter riposare sulla spalla dell'amato, lui si separava, si vestiva e sciupava il tempo prezioso che ancora rimaneva nel vagliare nuovi argomenti per le stesse idee politiche ripetute centinaia di volte. Quegli abbracci lasciavano Eliza sui carboni ardenti, ma non osava ammetterlo nemmeno nel recesso più nascosto della sua coscienza, perché sarebbe stato come mettere in dubbio la qualità di quell'amore. Allora cadeva nella trappola dell'indulgenza e giustificava l'amante pensando che se avessero avuto più tempo e un luogo sicuro si sarebbero amati meglio. Molto più belle dei momenti di fisicità erano le ore successive, trascorse a inventare quel che non era successo, e le notti passate a sognare ciò che forse sarebbe successo al prossimo incontro nella stanza degli armadi. Con quella serietà di cui investiva tutte le sue azioni, Eliza si dedicò al compito di idealizzare l'innamorato fino a trasformarlo in un'ossessione. Desiderava solo poterlo servire incondizionatamente per il resto dei suoi giorni e soffrire per dimostrare la sua abnegazione e morire per lui se si fosse reso necessario. Annebbiata dalla malia della prima passione, non si rendeva conto di non essere corrisposta con la medesima intensità. Il suo cavaliere non era mai del tutto presente. Perfino durante gli impetuosi abbracci sul cumulo di tende, il suo spirito vagava per altri lidi, pronto a partire o già assente. Si rivelava solo per metà, fugacemente, in un gioco esasperante di ombre cinesi, ma al momento del commiato, quando lei era sul punto di scoppiare a piangere per fame d'amore, le consegnava una delle sue favolose lettere. Per Eliza allora il mondo intero si trasformava in uno specchio il cui unico scopo era riflettere i suoi sentimenti. Soggiogata dall'arduo proposito dell'amore assoluto, non dubitava della propria capacità di darsi senza riserve e proprio per questo non riconosceva l'ambiguità di Joaquin. Aveva inventato un amante perfetto. E nutriva quella chimera con indomabile testardaggine, e la sua immaginazione la compensava degli ingrati abbracci dell'amante che la lasciavano sperduta nel limbo oscuro del desiderio insoddisfatto. Seconda parte, 1848-1849. La notizia. Il 21 settembre, primo giorno di primavera, secondo il calendario di Miss Rose, ventilarono le camere, fecero prendere aria ai materassi e alle coperte, incerarono i mobili di legno e cambiarono le tende della sala. Mamma Fresia lavò quelle di cretonna fiori senza scomporsi, convinta che le macchie secche fossero di orina di topo. Nel patio preparò grandi tinozze da bucato d'acqua calda con corteccia di ghiai, lasciò in ammollo le tende per un giorno intero, le inamidò con acqua di riso e le fece asciugare al sole. Poi due donne le stirarono e, tornate come nuove, furono appese per dare il benvenuto alla nuova stagione. Nel frattempo Elisa e Joaquin, indifferenti alla turbolenza primaverile di Miss Rose, se la spassavano sulle tende di velluto verde, più morbide di quelle di Creton. Ormai non faceva più freddo e le notti erano chiare. Gli incontri proseguivano da 3 mesi e le lettere di Joaquin Andieta, costellate da locuzioni poetiche e da infuocate dichiarazioni, si erano notevolmente diradate. Eliza coglieva l'assenza dell'innamorato, a volte abbracciava un fantasma, nonostante l'angoscia del desiderio insoddisfatto e del peso opprimente di tanti segreti, la ragazza aveva recuperato una calma apparente. Trascorreva le ore del giorno impegnata nelle occupazioni di prima, dedicandosi ai suoi libri, agli esercizi di piano o indaffarata in cucina e nella stanza del cucito, senza dimostrare il minimo desiderio di uscire di casa. Ma se Miss Rose glielo chiedeva, l'accompagnava con la buona disposizione di chi non ha niente di meglio da fare. Si coricava e si alzava presto, come sempre, aveva appetito e sembrava in salute, ma questi sintomi di perfetta normalità destavano tremendi sospetti in Miss Rose e Mamma Fresia. Non le toglievano gli occhi di dosso, diffidavano del fatto che l'ebbrezza d'amore fosse evaporata immediatamente, ma essendo trascorse diverse settimane senza che Eliza desse segni di turbamento, a poco allentarono la sorveglianza. Forse le candele a Sant'Antonio avevano sortito qualche effetto, pensò l'India. Forse non era amore, dopo tutto, pensò Miss Rose, senza molta convinzione. La notizia della scoperta dell'oro in California arrivò in Cile in agosto. Dapprima a diffondere la voce furono le bocche allucinate di navigatori ubriachi nei bordelli di El Almendral. Ma qualche giorno più tardi il capitano della goletta Adelaida annunciò che a San Francisco metà dei suoi marinai aveva disertato. «C'è oro dappertutto! Si raccoglie a palate, si sono viste pepite grandi come arance, con un minimo di intraprendenza si può diventare milionari», raccontò travolto dall'entusiasmo. Nel gennaio di quell'anno, nelle vicinanze del mulino di un fattore svizzero, sulle rive dell'American River, un tal Marshall aveva trovato nell'acqua una scheggia d'oro. Quel frammento giallo che avrebbe scatenato la follia fu scoperto 9 giorni dopo la firma del trattato di Guadalupe Hidalgo, che decretò la fine della guerra tra Messico e Stati Uniti. Quando si diffuse la notizia, la California non apparteneva più al Messico. Prima che si venisse a sapere che quel territorio poggiava su un tesoro senza fine, nessuno era particolarmente interessato a esso. Per gli americani era una regione di indiani e i pionieri preferivano conquistare l'Oregon, dove erano convinti che l'agricoltura desse frutti migliori. Il Messico lo considerava un covo di ladri e, durante la guerra, non si degnò di inviare le truppe per difenderlo. Poco tempo dopo, Sam Brannan, editore di un giornale e predicatore mormone incaricato di diffondere la fede, percorreva le strade di San Francisco divulgando la buona nuova. Probabilmente non gli avrebbero creduto, vista la sua reputazione piuttosto discutibile. Girava voce che avesse fatto cattivo uso del denaro di Dio e che quando la Chiesa mormone aveva preteso la restituzione, avesse replicato che l'avrebbe reso in cambio di una ricevuta firmata da Dio. Se le sue parole non fossero state avallate da una boccetta piena di polvere d'oro che passò di mano in mano mandando in visibilio la gente. Al grido all'oro, all'oro, 3 uomini su 4 abbandonarono tutto e partirono per i giacimenti auriferi. Dovettero chiudere l'unica scuola perché non rimasero nemmeno i bambini. In Cile la notizia produsse lo stesso impatto. Il salario medio era di 20 centavos al giorno e i giornali annunciavano che finalmente era stata scoperta El Dorado, la città sognata dai conquistatori, le cui strade erano pavimentate col prezioso metallo. La ricchezza delle miniere è come quella dei racconti di Sinbad o della lampada di Aladino. Senza tema di esagerare si valuta che il guadagno giornaliero sia di un'oncia di oro puro, scrivevano i giornali, e aggiungevano che ce n'era a sufficienza per arricchire migliaia di uomini per decenni. Il fuoco dell'avidità divampò immediatamente tra i cileni, che avevano anime da minatori, e il mese successivo iniziò la corsa verso la California. Inoltre si trovavano a metà strada rispetto a qualsiasi altro avventuriero che dovesse solcare l'Atlantico. Ci volevano 3 mesi dall'Europa a Valparaíso e altri 2 per arrivare in California. La distanza tra Valparaíso e San Francisco invece non raggiungeva le 7.000 miglia, mentre dalla costa est del Nord America, passando per Capo Horn, erano quasi 20.000. E questo, come calcolò Joaquín Andieta, era un notevole vantaggio per i cileni, visto che i primi ad arrivare avrebbero preteso i filoni migliori. Feliciano Rodríguez de Santa Cruz fece la stessa valutazione e decise di imbarcarsi immediatamente con 5 dei suoi migliori e più leali minatori, dopo aver promesso loro una ricompensa come incentivo per convincerli ad abbandonare le famiglie e a lanciarsi in quell'impresa piena di rischi. Dedicò 3 settimane alla preparazione di un bagaglio adatto per una permanenza di vari mesi in quella terra del nord del continente che immaginava desolata e selvaggia. Aveva un abbondante vantaggio rispetto alla maggior parte degli incauti che partivano alla cieca, senza mezzi, spinti dalla tentazione di una fortuna facile, ma senza la minima idea dei pericoli e delle fatiche dell'impresa. Non era disposto a spaccarsi la schiena lavorando come una bestia e per questo voleva viaggiare ben equipaggiato, portando con sé servitori di fiducia, spiegò a sua moglie, che era in attesa del secondo figlio, ma insisteva per accompagnarlo. Paulina pensava di imbarcarsi con 2 balie, il cuoco, una vacca e alcune galline che potessero fornire giornalmente latte e uova per le creature durante la traversata. Ma una volta tanto il rifiuto del marito fu categorico. L'idea di partire per una simile odissea con tutta la famiglia a carico era un progetto completamente folle. Sua moglie aveva perduto il ben dell'intelletto. «Come si chiamava quel capitano amico di Mr. Todd?» lo interruppe Paulina nel bel mezzo della sua tiritera, mantenendo in equilibrio una tazza di cioccolata sulla prominenza del ventre, mentre mordicchiava un dolcetto di pasta sfoglia e latte condensato, ricetta delle Clarisse. «John Somers, intendi?» quello che era stufo di navigare a vela e parlava di imbarcazioni a vapore. Proprio lui. Paolina si mise a riflettere, continuando a portarsi alla bocca i pasticcini, senza badare minimamente all'elenco dei pericoli che suo marito stava sciorinando. Era ingrassata e della gracile ragazza fuggita dal convento con la testa rasata rimaneva ben poco. «Quanto c'è sul mio conto a Londra?» chiese alla fine. 50.000 sterline, sei una signora molto ricca. Non lo sono abbastanza. Mi puoi prestare il doppio dell'importo a un interesse del 10% pagabile in 3 anni? E ora cosa diavolo ti è venuto in mente? A cosa ti servono tutti questi soldi? Per un vapore. Il vero affare non è l'oro, Feliciano, che alla fine della fiera è solo cacca gialla. Il vero affare sono i minatori. Hanno bisogno di tutto in California e pagheranno in contanti. Dicono che i vapori filano dritti, non devono sottostare ai capricci dei venti, sono più grandi e più veloci. I velieri appartengono al passato. Feliciano continuò a lavorare ai suoi progetti, ma l'esperienza gli aveva insegnato a non sottovalutare le intuizioni finanziarie della moglie. Per diverse notti non riuscì a dormire, passeggiava insonne per gli sfarzosi saloni della sua bella casa, tra sacchi di provviste, casse di attrezzi, barili di polvere da sparo e pile di armi per il viaggio, pesando e soppesando le parole di Paolina. Più ci pensava e più gli sembrava azzeccata l'idea di investire nei trasporti. Ma prima di prendere una qualsiasi decisione, si consultò con il fratello che era suo socio in tutti gli affari. Questi lo ascoltò a bocca aperta e quando Feliciano finì di spiegare la faccenda, si diede una manata sulla fronte. Perbacco, fratello! E non potevamo pensarci prima! Nel frattempo, Joaquín Andieta, come migliaia di altri cileni della stessa età e di ogni condizione, sognava borse d'oro in polvere e pepite sparse per terra. Diversi suoi conoscenti erano già partiti, anche uno dei compagni della libreria Santo Stornero, un giovane liberale che sparava a zero contro i ricchi ed era il primo a denunciare la corruzione del denaro, ma che non aveva saputo resistere al richiamo e se n'era andato senza salutare nessuno. Per Joaquin la California rappresentava l'unica possibilità di lasciarsi alle spalle la miseria, di portare via sua madre da quella casa e di curarle i polmoni malati, di piazzarsi davanti a Jeremy Sommers a testa alta e con le tasche traboccanti a chiedere la mano di Eliza. Oro, oro a portata di mano, poteva vedere i sacchi del metallo in polvere, le ceste di pepite enormi, le banconote in tasca. Il palazzo che si sarebbe fatto costruire più solido e con più marmi del Club dell'Unione per mettere a tacere i parenti che avevano umiliato sua madre. Si vedeva anche uscire dalla chiesa della Matrice al braccio di Eliza Somers, gli sposi più felici del pianeta. Era solo questione di rischiare. Che futuro gli offriva il Cile? Nel migliore dei casi sarebbe invecchiato contando i prodotti che passavano sulla scrivania della compagnia britannica di importazione ed esportazione. Non aveva niente da perdere, visto che non possedeva comunque niente. La febbre dell'oro lo trasformò, perse l'appetito e il sonno, era sempre inquieto e scrutava il mare con occhi da pazzo. L'amico libraio gli prestò libri e cartine della California e un opuscolo sul lavaggio del metallo che lesse avidamente mentre faceva conti forsennati nella speranza di farcela pagarsi il viaggio. Le notizie sui giornali erano una tentazione irresistibile. In una parte delle miniere chiamata Dry Diggings, l'unico attrezzo necessario è un coltello comune per scrostare il metallo dalle rocce. In altre è già separato e si usa solamente un utensile molto semplice che consiste in un normale trogolo di assi dal fondo rotondo di una decina di piedi di lunghezza e 2 di larghezza nella parte superiore. Non essendo necessario capitale, la competizione nel lavoro è molto forte e uomini che a stento potevano tirare la fine del mese ora posseggono migliaia di pesos del prezioso metallo, questo scrivevano i giornali. Quando Andieta menzionò la possibilità di imbarcarsi per il nord, sua madre reagì male quanto Eliza. Senza essersi mai viste, le due donne pronunciarono esattamente le stesse parole. «Se te ne vai, Joaquin, io morirò». Entrambe tentarono di fargli vedere gli innumerevoli pericoli di una simile impresa e giurarono che preferivano 1.000 volte la povertà irrimediabile al suo fianco a una fortuna illusoria con il rischio di perderlo. La madre gli assicurò che non se ne sarebbe mai andata da quella casa neanche se fosse stata milionaria, perché lì c'erano le sue amicizie e comunque non avrebbe saputo dove andare. E per quanto riguardava i suoi polmoni, non c'era nulla da fare, solo aspettare che finissero per scoppiare. Dal canto suo, Eliza si dichiarò disposta a fuggire nel caso non li lasciassero sposare, ma lui non le ascoltava, perso nei suoi vaneggiamenti, sicuro che un'opportunità come questa non si sarebbe più presentata e che lasciarsela scappare sarebbe stato un atto di imperdonabile codardia. Mise al servizio della nuova ossessione lo stesso entusiasmo prima impiegato nel propagandare le idee liberali, ma gli mancavano i mezzi per realizzare i progetti. Non poteva dare concretezza al suo destino senza una determinata somma con cui pagarsi il biglietto e munirsi del necessario. Si presentò in banca per chiedere un piccolo prestito, ma non aveva di che garantirlo e alla vista del suo aspetto da povero diavolo venne gelidamente respinto. Per la prima volta pensò di rivolgersi ai parenti di sua madre, con i quali fino ad allora non aveva mai scambiato una parola, ma era troppo orgoglioso per farlo. La visione di un futuro splendido non lo lasciava in pace, a fatica riusciva a portare a termine il lavoro, le lunghe ore alla scrivania si trasformavano in un castigo. Rimaneva con la penna in aria a guardare, senza vedere, la pagina bianca, mentre ripeteva a memoria i nomi delle imbarcazioni che avrebbero potuto portarlo al nord. Le notti gli scivolavano via tra sogni burrascosi e veglie agitate. Si svegliava con il corpo esausto e l'immaginazione in fermento. Commetteva errori da principiante, mentre intorno a lui l'esaltazione raggiungeva livelli di isteria. Tutti volevano partire e chi non poteva andare di persona stanziava fondi in imprese, investiva in compagnie fondate frettolosamente, mandava un rappresentante di fiducia sul posto, previo accordo circa la divisione dei profitti. Gli scapoli furono i primi a salpare. Presto anche gli sposati abbandonarono i figli e, nonostante le truculente storie di malattie sconosciute, di incidenti terribili e crimini brutali, si imbarcarono senza guardarsi indietro. Gli uomini più pacifici erano disposti ad affrontare i rischi di pistolettate e pugnalate. I più prudenti abbandonavano la sicurezza conquistata in anni di sforzi e si lanciavano nell'avventura con i loro bagagli di deliri. Alcuni investivano i propri risparmi nel biglietto, altri sostenevano le spese del viaggio, lavorando come marinaio, impegnando il loro lavoro futuro, ed erano talmente tanti a cercare di imbarcarsi che, nonostante le indagini giornaliere al molo, Joaquín Andieta non trovò posto in nessuna nave. A dicembre non ce la fece più. Quando stava per copiare il rapporto di un carico giunto in porto, come faceva scrupolosamente ogni giorno, alterò le cifre sul registro e poi distrusse i documenti originali di sbarco. Così, grazie a un gioco di prestigio contabile, fece sparire diverse casse di pistole e di proiettili provenienti da New York. Per 3 notti di seguito riuscì a eludere la sorveglianza della guardia, a violare le serrature e a introdursi nella cantina della compagnia britannica di importazione ed esportazione per rubare il contenuto di dette casse. Per farlo furono necessari diversi viaggi, perché il carico era pesante. Per prime si portò via le pistole nelle tasche e legate alle gambe e alle braccia sotto gli indumenti. Poi fece sparire le pallottole in sacchetti. In diverse occasioni i guardiani che facevano la ronda di notte furono sul punto di sorprenderlo, ma la sorte fu dalla sua e tutte le volte riuscì a squagliarsela in tempo. Sapeva di poter contare su un paio di settimane prima che le casse venissero reclamate e il furto venisse scoperto. Immaginava peraltro che sarebbe stato molto facile seguire il filo dei documenti mancanti e delle cifre modificate fino ad arrivare al colpevole, ma per quel momento sperava di trovarsi già in alto mare e quando fosse stato in possesso del suo tesoro personale avrebbe restituito fino all'ultimo centesimo con gli interessi, visto che l'unica spinta a commettere tale misfatto continuava a ripetersi, era stata la disperazione. Si trattava di una questione di vita o di morte. La vita, come lui la intendeva, era in California. Rimanere intrappolato in Cile equivaleva a una morte lenta. Vendette una parte del bottino a basso prezzo nei bassifondi del porto e l'altra agli amici della libreria Santo Stornero, dopo aver fatto loro giurare che avrebbero mantenuto il segreto. Quei ferventi idealisti non avevano mai tenuto un'arma in mano, ma da anni si preparavano a parole a un'utopica rivolta contro il governo conservatore. Sarebbe stato tradire le loro stesse intenzioni, non comprare le pistole al mercato nero, soprattutto se si teneva conto del prezzo da occasione. Joaquín Andieta ne tenne due per sé, deciso a utilizzarle per farsi strada, ma ai compagni non disse nulla del suo progetto di andarsene. Quella notte, nel retrobottega della libreria, Anche lui si portò la mano destra sul cuore e giurò in nome della patria che avrebbe dato la vita per la democrazia e la giustizia. Il mattino successivo comprò un biglietto di terza classe per la prima goletta che salpava in quei giorni e alcune sporte di farina tostata, fagioli, riso, zucchero, carne di cavallo secca e fette di salame che, razionate con parsimonia, sarebbero state appena in grado di sostentarlo durante la traversata. I pochi reales che gli avanzarono se li assicurò in vita con una fascia stretta. La notte del 22 dicembre si congedò da Eliza e da sua madre e il giorno dopo partì per la California. Mamma Fresia scoprì le lettere d'amore casualmente, cogliendo le cipolle nel piccolo orto del patio. La forcella urtò contro la scatola di latta. Non sapeva leggere, ma fu sufficiente un'occhiata per capire di cosa si trattasse. Ebbe la tentazione di consegnarle a Miss Rose perché le bastava tenerle in mano per sentirne la minaccia. Avrebbe giurato che il pacchetto legato con un nastro battesse come un cuore vivo. Ma l'affetto per Eliza ebbe la meglio sulla prudenza e invece di rivolgersi alla padrona, rimise le lettere nella scatola da biscotti, la nascose sotto l'ampia gonna nera e si diresse sospirando verso la camera della ragazza. Trovò Eliza seduta su una sedia, con la schiena ritta e le mani sulla gonna come fosse in chiesa, intenta a guardare il mare dalla finestra con una tale angoscia che l'aria intorno a lei era densa e carica di premonizioni. Le mise la scatola sulle ginocchia e rimase vanamente in attesa di una spiegazione. «Quell'uomo è un demonio, ti porterà solo disgrazie», le disse infine. «Le disgrazie sono già iniziate. 6 settimane fa è partito per la California e non mi sono ancora arrivate le mestruazioni». Mamma Fresia si sedette per terra con le gambe incrociate, come faceva quando era agitatissima, e cominciò a dondolarsi avanti e indietro, gemendo sommessamente. «Taci, mamita, Miss Rosa ci può sentire», supplicò Eliza. «Un figlio delle fogne, un uacio! E adesso, bambina mia, cosa facciamo, cosa facciamo?» continuò a lamentarsi la donna. «Mi sposerò? E come se quello se n'è andato? Dovrò andare a cercarlo. Oh, Gesù dei cieli, sei impazzita! Ti farò un rimedio e in pochi giorni sarai come nuova!» La donna preparò un infuso a base di borragine e una tisana di escrementi di gallina in birra scura, che diede da bere a Eliza 3 volte al giorno. Le prescrisse inoltre dei semicupi con zolfo e le mise degli impacchi di senape sul ventre. Il risultato fu che ingiallì e iniziò a essere madida di una traspirazione appiccicosa che sapeva di gardenie marce. Ma dopo una settimana non si era verificato nessun sintomo di aborto. Mamma Fresia stabilì che senza dubbio si trattava di un maschio maledetto e per questo si avvinghiava così alla pancia della madre. Una disgrazia simile era troppo grande per lei, c'era di mezzo il diavolo e solamente la sua maestra, la Maci, poteva sperare di avere la meglio su una sventura di tale portata. Quello stesso pomeriggio chiese il permesso ai signori per allontanarsi e ancora una volta percorse a piedi il penoso cammino fino al crepaccio per presentarsi a testa china davanti alla vecchia stregona cieca. Le portò in dono 2 stampi di dolce di mela cotogna e un'anatra stufata al dragoncello. La Maci ascoltò gli ultimi sviluppi assentendo con aria infastidita come se sapesse già cos'era successo. L'avevo detto, l'ostinazione è un male molto forte. Si aggrappa al cervello e spezza il cuore. Di ostinazioni ce ne sono molte, ma quella d'amore è la peggiore. Puoi fare qualcosa per la mia bambina? Perché butti fuori il uacio? Per potere posso, ma questo non la guarirà, dovrà comunque seguire il suo uomo. Ma è andato molto lontano a cercare l'oro. Dopo quella d'amore l'ostinazione più grave è quella dell'oro, sentenziò la Maci. Mamma Fresia pensò che sarebbe stato impossibile far uscire Eliza per portarla alla gola della Maci, farla abortire e ritornare con lei a casa senza che Miss Rose se ne accorgesse. La sciamana aveva 100 anni ed erano 50 che non metteva il naso fuori dalla capanna e quindi non si sarebbe certo recata a casa Somers per occuparsi della ragazza. Doveva pensarci lei, non rimaneva altra alternativa. La Maci le consegnò un ramo sottile di colihue e un unguento scuro e fetido, poi le spiegò come ungere la canna di quel decotto e inserirla in Eliza. Subito dopo le insegnò le parole dell'incantesimo che avrebbero eliminato il bambino del diavolo e al contempo protetto la vita della madre. Il tutto andava realizzato la notte di venerdì, unico giorno della settimana autorizzato per l'operazione, la avvertì. Mamma Fresia ritornò molto tardi, esausta, con il colihue e l'unguento sotto la mantella. «Prega, bambina mia, perché fra 2 notti ti farò il rimedio», annunciò Eliza, quando le portò a letto la cioccolata della colazione.